Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Sono venuto a Ferrara per vedere questa città, questo gioiello del nostro Rinascimento, ma con un occhio un po' particolare. Ferrara oggi è ricca di monumenti, soprattutto di edifici, il Castello Estense, la Corte Ducale, il Palazzo Schifanoia e poi tutto il grande quartiere che fu aggiunto da Ercole d'Este, la cosiddetta addizione erculea, con tutti i palazzi del Rinascimento. Però si deve constatare una cosa per la città di Ferrara e anche per altre città del nostro Rinascimento, che questa città appare ai nostri occhi paradossalmente vuota, bellissima ma vuota. E vuota di che cosa? Beh, vuota degli incredibili tesori artistici che gli Estensi, come i Gonzaga, come i signori di Urbino, avevano accumulato all'interno degli edifici e che oggi non ci sono più. Noi oggi possiamo vedere quello che è rimasto, per esempio, gli affreschi sui muri, Palazzo Schifanoia, con questo meraviglioso ciclo di affreschi dei mesi che immagina la vita di Borso d'Este scandita dai mesi e con la protezione addirittura delle divinità dell'Olimpo, e quanto rimane perché è rimasta sui muri. Ma qui c'erano libri miniati, mobili, dipinti, così come il castello era ricchissimo di arredi, che purtroppo si sono allontanati dalla città per le vicende politiche. Nel 1598 Ferrara non ha più un signore Estense che la governa e il pontefice, che era il feudatario di Ferrara, si riprende la sua città e da quel momento comincia la diaspora delle opere d'arte, che in parte sono andate a Modena. Noi, per vedere le meraviglie di Ferrara, dobbiamo andare a Modena, dobbiamo andare a Roma perché gran parte dei dipinti furono portati dal cardinale legato a Roma, e poi dobbiamo andare nei musei di tutto il mondo. Uno degli ambienti più belli, che si trovava in una via coperta, cioè una specie di cavalcavia che univa il Palazzo Ducale al castello, la via coperta, aveva i camerini d'alabastro di Alfonso d'Este, questi camerini d'alabastro che erano dei rivestimenti marmorei scolpiti con le storie degli dei, e erano di marmo, ma sembravano, erano talmente lucidi e belli che sembravano d'alabastro, opera della bottega dei Lombardo, grandissimi scultori veneziani. Bene, non sono più lì, per vederli bisogna andare a San Pietroburgo.